versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 e in questi primi pomeriggi dell'anno, oltre la cronaca, oltre tutto quello che molto presto ci tornerà anche nella trasmissione qui la versione di Oscar a costringerci a inseguire le vicende più o meno positive, anche però qualche pausa di iniziale riflessione come avviene in questi giorni. Qualche volta vi proporrò un secondo di fermarci per riflettere su un tema traendo spunto da un libro, e in questo caso oggi parliamo di un tema che aveva iniziato a diffondersi nel dibattito pubblico italiano, anche internazionale, ma insomma prima di questi terribili 7 anni di crisi che abbiamo alle spalle e che sono ben lungi dall'essere finiti anche in questo 2015, e che naturalmente adesso si trova a fare i conti con gli effetti di questi 7 anni di crisi. Oggi parliamo della decrescita, della decrescita che a un certo punto è diventata la decrescita felice, no? da uno slogan, un movimento che uno degli epigoni della tesi della decrescita come inevitabile curva da seguire, ma da seguire con soddisfazione, da perseguire anzi come una cosa positiva. Uno degli epigoni di questa convinzione in Italia, Maurizio Pallante, appunto, ha fondato un movimento sulla decrescita felice, e la decrescita felice è diventato uno dei paradossi e dei luoghi comuni del dibattito pubblico italiano. Naturalmente sono tantissime le declinazioni internazionali e italiane di tutti coloro che sono convinti che in realtà il modello di crescita dell'economia di mercato, che ha questa tendenza inevitabile a considerare la crescita positiva e a perseguirla a tutti i costi, sia intrinsecamente sbagliato, sia instabile per definizione, e che al contrario bisogna entrare in un orizzonte nel quale il minor consumo di beni, di servizi, della natura, eccetera, eccetera, sia invece la dimensione ottimale da perseguire. Ripeto, le versioni di questo pensiero sono tante. Naturalmente Latouche è uno dei punti di riferimento, Ivan Illich, oppure in Italia persone che vanno per la maggiore, che piacciono molto anche in televisione, come il filosofo Diego Fusaro o lo psicanalista Luigi Zoia e così via. Allora, su questo spunto di riflessione, su quanto sia fondata questa tesi per la quale la decrescita felice, per così dire, sia il vero orizzonte a cui guardare, sbarazzandoci di tutte queste cristallizzazioni infrastrutturali che ci fanno guardare al PIL col segno positivo come se quello fosse la vera cosa da perseguire, mio consiglio è di prendere in mano un bel libro, comprarlo e leggerne le abbastanza fitte 260 pagine. L'editore è Longanesi, il titolo è Contro la decrescita, perché rallentare non è la soluzione, quindi come sempre a me piacciono le tesi dichiarate, esplicite. Contro la decrescita, perché rallentare non è la soluzione, editore Longanesi, e l'autore è qui oggi pomeriggio per parlarne con noi. L'autore si chiama Luca Simonetti, avvocato, e ha scritto questo libro della tesi molto chiara, nel quale libro vi presenta innanzitutto tutte le diverse versioni che sono state presentate e che non è detto siano tra loro coerenti di che cosa davvero significhi per gli autori che lo sostengono questo orizzonte di decrescita, per poi esporre il proprio deciso punto di vista, cioè che si tratta di una cosa che non sta in piedi. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Luca Simonetti. Buon pomeriggio. Che cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? È una domanda che mi fanno spesso, in realtà è un frammento, una parte di una ricerca più ampia che riguarda, diciamo così, il degrado della cultura politica e del dibattito italiano. Io avevo cominciato 4 anni fa occupandomi di slow food, su cui avevo scritto un libro. Ho continuato con la decrescita, intendo, se forse non lo consentiranno, di continuare a parlare di altri fenomeni analoghi. Il fenomeno comunque è decisamente ampio e abbastanza preoccupante, non che sia preoccupante o minaccioso o pericolosa la decrescita in sé per sé. Però è un sintomo di un fenomeno, ripeto, molto molto molto più ampio. Allora, il libro di 4 anni fa si intitolava Mangi chi può, meglio, meno e piano, l'ideologia di slow food, per capirci, che è stata anche una delle, per così dire, articolazioni con maggior successo di massa della cultura mainstream più diffusa negli ultimi anni nel nostro paese. E naturalmente qui non stiamo parlando della riscoperta ovviamente delle specializzazioni, delle vocazioni territoriali della produzione italiana enogastronomica, stiamo parlando dell'ideologia del consumo a costo zero, oppure di ciò che per esempio Petrini collega poi a questa sua impostazione nel movimento per i contadini del mondo contro lo sfruttamento intensivo delle aree coltivabili, eccetera eccetera eccetera. Allora, ripeto, in questo libro lei ha una tesi radicale, però siamo così sicuri che ha senso mettere insieme autori e tesi così diverse? Questa è una bella domanda, è una domanda che mi sono fatta anch'io. In realtà la ricrescita, come ho cercato di spiegare all'inizio del libro, come in realtà ha ricordato giustamente all'inizio, non è una teoria unitaria e non è nemmeno una teoria molto facile da definire. Io la preferisco definirla come una costellazione, o forse il termine più corretto è nebulosa, di diversi atteggiamenti, non tanto di teoria, ma proprio di atteggiamenti o di attitudini anche sentimentali, che chiaramente non sono sempre coerenti fra loro. Gli esponenti delle varie correnti si criticano vicendevolmente abbastanza spesso, però c'è un nucleo fondamentale di opinioni e di sentimenti che direi che si ritrova senza troppe differenze in tutte le varie declinazioni della decrescita. Ed è su questi aspetti che ho cercato di soffermarmi nel mio libro, senza nascondere ovviamente il fatto che ci sono anche differenze, che alcune teorie più estreme, come per esempio quelle dei cosiddetti primitivisti, coloro che sostengono che bisognerebbe ritornare al tipo di vita dei cacciatori raccoglitori del paleolitico, o quantomeno ma siamo su un aspetto di colore, per così dire, perché quello non credo che possa avere consenso di massa l'idea di tornare, insomma, certo, a fare i cacciatori raccoglitori. Cosa diversa invece è il consenso molto esteso, secondo me, che hanno alcune osservazioni di fondo sul fatto che bisognerebbe liberarsi di questa specie di tirannia dell'economia, di tirannia del PIL, eccetera eccetera. Cioè, in questo in realtà la teoria della decrescita è un erede a propria volta di alcune obiezioni di fondo al meccanismo di mercato, perché da una parte c'è la vecchia tesi di Malthus che diceva non si può, troppi abitanti rispetto allo sviluppo tecnologico. Poi in realtà noi abbiamo avuto un innalzamento del livello tecnologico, per cui dalla stessa quantità di risorse siamo in grado di ottenere una produttività sia dal punto di vista di quantità di alimentari prodotti sia in termini di resa termodinamica delle energie che utilizziamo enormemente maggiore di quello che pensava Malthus. Però quello è un filone che dalla fine del Settecento, inizio Ottocento, era già presente e c'è in questo tipo di impostazione della decrescita di Latouche, per esempio. Poi ce n'è un altro che dice un eccesso di finanza nell'economia che ci circonda in realtà è un velo di fronte agli occhi di tutti, perché c'era il fatto che l'innalzamento del tasso di rendimento del capitale che viene perseguito dalla finanza globalizzata non fa più guardare tanto bene gli effetti su Gaia, sulla natura, sulle risorse che sono comunque scarse. E diciamo, questo è un secondo filone, ed è un filone molto forte in questi anni, perché molta parte del pensiero ambientalista si nutre di questo, e tanti intellettuali della sinistra italiana, voglio dire Giorgio Ruffolo, oppure il famoso e completamente sbagliato rapporto del Club di Roma, stiamo parlando di decenni fa, in cui si diceva andremo a sbattere con il nostro modello di sviluppo, in realtà si abbeverano esattamente a quel tipo di obiezioni. Allora, dopo questa sintesi imperfetta, le faccio una domanda per dire: nel suo libro la decrescita è più vista come una critica all'economia di mercato, al capitalismo, o c'è più filosofia in realtà che modello economico sull'instabilità dell'economia di mercato, secondo lei? Beh, secondo me ci sono sicuramente entrambi gli aspetti che ha individuato. Dal mio punto di vista ritengo che la decrescita in tutte le sue varie declinazioni non sia tanto una critica dell'economia di mercato, dell'economia liberale, dell'economia o anche delle economie di mercato sociale come si sono sviluppate in Europa in certi periodi, anche negli Stati Uniti. Secondo me la decrescita è fondamentalmente una critica della società tecnologica, come a suo tempo Colletti, Paolo Rossi ed altri avevano detto a proposito di certe teorie di Marcuse o di alcuni teorici della scuola di Francoforte. Infatti la vera obiezione che la decrescita muove alla società contemporanea non è tipica della società di mercato, perché tutto sommato lo stesso tipo di critiche muoverebbero o hanno mosso a suo tempo anche alle società comuniste o alle società di capitalismo, diciamo così, di Stato. Il vero problema della decrescita non è, ripeto, il capitalismo, non è il mercato. Il vero problema della decrescita è la volontà di controllare la natura a scopi di sviluppo umano, e questo è tendenzialmente la bestia nera della decrescita. Allora, se andiamo a vedere il pensiero di uno dei numi, dei vati di questa passione, cioè Latouche, vediamo che la nuova società della decrescita dovrebbe essere governata dal programma delle 8 R. Lei ne passa in rassegna in un capitolo che si intitola Decolonizzare l'immaginario, appunto la decrescita secondo Latouche, e dice interessante soprattutto la prima R delle 8 R di Latouche, cioè rivalutare. Si tratterebbe, scrive, niente meno che di mutare tutti i nostri valori. L'altruismo dovrebbe prendere il posto dell'egoismo, la cooperazione sostituirsi alla competizione, il piacere dello svago e del gioco succedere all'ossessione del lavoro. Ecco, questi ultimi aspetti che lei cita sono in realtà, a mio modestissimo giudizio, uno dei motivi di forza del consenso non troppo precisamente articolato, che però questi temi hanno nel dibattito pubblico italiano, perché la liberazione dei tempi di lavoro, che è vissuta nella società post-industriale e digitale in una chiave molto diversa dalle lotte contro il fatto che non vi fossero limiti orari giornalieri di lavoro della prima ondata di industrializzazione, ovviamente nella Gran Bretagna nell'Ottocento, però è una cosa questa che piace molto, per così dire, perché confonde il fatto che le nuove tecnologie consentano per esempio il telelavoro col fatto che si lavora troppo, e in realtà, siccome in questi anni di crisi abbiamo visto la disoccupazione quanto è salita, lavorare meno, lavorare tutti è tornato uno slogan. Allora, su questa prima R, rivalutare, capovolgendo tutti i valori della vita, con gli esempi che ha fatto lei della Tosh, secondo me si spiega in larga misura perché queste idee piacciono. Quanta finta sociologia e quanto spacciare per altra cosa processi che sono collegati alla trasformazione delle tecnologie c'è secondo lei in questa R? Assolutamente tantissima, e direi che fondamentalmente proprio questo il punto cruciale del programma di Latouche, che è un programma rigidamente antimaterialista, perché Latouche è uno che è convinto che per cambiare il mondo basta cambiare la coscienza dell'uomo, basta cambiare, come dire, basta cambiare le idee, dimenticando che il mondo è fatto in gran parte di strutture economiche, di processi molto materiali e molto pesanti che devono essere cambiati prima di poter cambiare l'organizzazione della società e conseguentemente anche la coscienza umana, perché gli stessi valori sono un prodotto sociale, quindi per poterli cambiare bisogna intervenire, come dire, alla radice, e questo mi sembra abbastanza chiaramente messo in luce dalle parole che ha riportato lei prima. Allora, un altro degli aspetti del pensiero di Latouche che secondo me lo rende popolare è che nella sua critica molto radicale al liberalismo, in realtà Latouche mette a quel punto al centro dei suoi strali la società dei consumi in quanto tale, di cui chiede naturalmente un mutamento complessivo, totale, radicale dei paradigmi. Qui andiamo a uno dei punti di fondo. Io trovo incomprensibile come a molti di coloro che sono convinti di vivere in un mondo che sta esplodendo, implodendo e così via, sfugge il fatto che negli ultimi 10-15 anni noi abbiamo, rispetto all'intera storia dell'umanità, strappato a rischio dell'economia di sussistenza, cioè a rischio di morire di fame, più centinaia di milioni di abitanti di questo granello che va nel cosmo, che è la Terra, di tutto rispetto a quanto è avvenuto nell'intera storia di cui siamo al corrente, cioè da quando c'è la storia scritta. In 15 anni è avvenuto questo che si deve in realtà al fatto che la società dei consumi ha portato a risolvere il problema della sopravvivenza prima minacciata per 1 miliardo e rotti di abitanti del pianeta Terra, che adesso sono diventati consumatori e ascendono molto in pochissimi anni nella fascia dei consumi che ambiscono e che realizzano, perché i centinaia di milioni di nuovi clienti, per esempio delle cose che facciamo in Italia, che stanno nel Far East asiatico, sono questa roba qua. Allora, come avviene secondo lei il fatto per cui chi produce queste cose e dovrebbe essere molto interessato alla moltiplicazione di coloro che le vogliono comprare, perché gli italiani le producono e il loro problema è di venderle a questi signori, in realtà poi contemporaneamente pensino che la società dei consumi è completamente sbagliata? Beh, diciamo che è un fenomeno affine alla convinzione di tanta parte dell'economia italiana che si possa contemporaneamente predicare il chilometro zero, quindi la produzione di vicinanza, ridurre i trasporti eccetera eccetera, e contemporaneamente pretendere di vendere i prodotti made in Italy in tutto il mondo. Chiaramente le due richieste sono in contraddizione fra loro. Allo stesso modo, la contraddizione che indicava lei prima mi sembra un indice del modus operandi del tutto ideologico di questo tipo di teorie. Naturalmente noi sappiamo che nel dare questa risposta veniamo a nostra volta tacciati di ideologismo, però continuiamo a parlarne dopo 60 secondi intanto strada. La versione di Oscar. Eccoci tornati, stiamo riflettendo oggi sul problema della decrescita, traendo spunto da un libro, un bel libro secondo me, che vi consiglio di leggere. Comunque la pensiate, anche se siete convinti che in larga misura gli spunti di cui parliamo oggi, cioè la critica radicale all'economia, al PIL, alla società dei consumi, sia fondata, ecco, qui trovate per la prima volta un libro che in 260 pagine passa in rassegna i diversi autori che in qualche misura convergono a sostegno della decrescita, e vi dà molti spunti per riflettere su questo argomento, per riflettere criticamente, perché noi siamo contrari, per così dire, ed è con noi appunto Luca Simonetti, che ha scritto questo libro, ve ne ripeto il titolo, Contro la decrescita, perché rallentare non è la soluzione, Longanesi. Allora, passiamo un secondo all'Italia. Secondo lei, da questo punto di vista, l'esperienza di questi anni ci insegna che è stata un'adesione convinta quella che è venuta da parte dei media e dell'opinione pubblica italiana? È stata una cosa accentuata per gli effetti della crisi e il rimbalzo del fatto che la sinistra tradizionale, quella marxista, è ovviamente spiazzata nella sua evoluzione storica e quindi si riaggancia a questi filoni che intrecciano critiche radicali plurisecolari da una parte, ma dall'altra anche un sincretismo New Age e così via? Che cos'è che distingue il sostegno alla decrescita nel nostro paese? Anche questa è una bella domanda, davvero mi piacerebbe avere una risposta. Io credo che l'ultimo dei fattori che lei ha menzionato, cioè il venir meno delle tradizionali posizioni, dei tradizionali ideali, delle tradizionali forze che spingevano la sinistra, è sicuramente un fattore, visto che come diceva Chesterton, quando si smette di credere in Dio poi si finisce per credere in tutto. Anche qui il rischio è che la perdita della fede nell'idea di progresso, la perdita della fede nell'idea di avanzamento sociale, di riforma, eccetera, può esporre poi alla tentazione di cadere nelle trappole del primo apocalittismo che passa per strada, insomma. Questo penso che sia quello che è successo per quanto riguarda la decrescita, che ripeto di per sé è una teoria non particolarmente profonda, non particolarmente articolata, non particolarmente coerente, per quanto mi riguarda per nulla convincente. Perché abbia influito anche la crisi, questo onestamente non lo so, mi sembrerebbe in realtà anche abbastanza paradossale, anche se non lo escludo, perché l'esperienza della crisi dovrebbe in qualche modo, a mio avviso, vaccinarci contro le sirene che ci dicono che diventare più poveri è tanto bello, insomma. Però naturalmente in Italia la declinazione non è solo un fenomeno italiano, questo riguarda tutti i paesi avanzati. Il successo del libro di Piketty sul Capitale nel XXI secolo è un successo che dice che gli effetti sconvolgenti della crisi in termini di regressione di, nel nostro caso, 9 punti di produzione industriale, nove punti di PIL, un quarto, il 25% di produzione industriale, il 27% di investimenti, il 15% medio pro capite di reddito reale in meno in questi anni di crisi, la declinazione diventa, ma perché ci sono troppe ineguaglianze, e quindi diventa la chiave del successo del libro di Piketty, con una specie di scoperta: da 200 anni a questa parte il tasso di rendimento del capitale finanziario è sempre superiore alla crescita, confondendo molto le cose, secondo me. Però, detto questo, questa diventa una delle declinazioni che può spiegare perché, anche di fronte alla disoccupazione e perdita di reddito di massa, chi dice che c'è una decrescita a quel punto, che deve soprattutto levare a chi ha troppo, diventa una chiave italiana. Ma c'è un altro aspetto che a me interessa molto, è quello della critica radicale alla scienza e alla tecnica. Per esempio in Italia abbiamo filosofi neoplatonici come Umberto Severini, che da sempre ripetono il predominio della tecne e così via. Sono poi, secondo me, degli sviluppatori della critica radicale della scuola francofortese nel secondo dopoguerra al fondamento della civiltà occidentale scientifico-tecnologica, però ammantati di filoplatonismo. Beh, in Italia anche quelli tra gli intellettuali hanno un bel po' di seguaci. Stiamo parlando ovviamente lì di una lettura alta delle contraddizioni del mondo occidentale, perché la tecne sarebbe sfuggita di mano all'uomo e quindi si sarebbe impadronita, per così dire, con un abbattimento della dimensione umana e delle priorità umane nella crescita, generando una specie di catena conseguenziale di scelte che dipendono esclusivamente dall'innalzamento della capacità computazionale, dalla legge Moore, per cui ogni 18 anni in maniera quadratica aumenta il prezzo costo dell'aumento dell'effetto dell'aumento della capacità computazionale in un chip, e così via. Allora, lei affronta in un capitolo anche questo aspetto, che è un aspetto, per così dire, che non ha a che vedere con il sostegno politico o sociale a queste tesi, riguarda il cuore dell'intelligenza dei paesi avanzati italiani. Noi rimaniamo antiscientifici, vero o no? Sì, assolutamente. La cosa interessante, di cui sono accorto studiando appunto la decrescita, e prima ancora studiando lo food, studiando tante altre cose di cui non ho parlato nel libro, è che stanno riemergendo come delle grosse novità delle antichissime critiche alla ragione e alla scienza che hanno accompagnato la rivoluzione industriale, anche la rivoluzione francese fin dal loro inizio, che poi si sono riformulate all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, nella critica idealistica al pragmatismo, cioè no, al positivismo prima, alla scienza dopo, e che poi sono riemesse, come diceva lei giustamente prima, sotto la specie di una posizione invece rivoluzionaria di critica all'economia capitalista, sotto la specie della teoria francofortese della dialettica dell'illuminismo di Horkheimer, ritorno. Quindi è sicuramente questa la vera radice. Questa posizione una volta era caratteristica di certe posizioni di destra, diciamo, di una certa destra, insomma. Attualmente tende a diventare perché popolare. Perché è una destra che in Italia è una destra legata da sempre all'idealismo hegeliano, gentile, cioè lo spirito che si manifesta nella storia e di cui lo Stato sarebbe la divina incarnazione. Altrove la destra invece è una destra fatta molto tecnologica, altrove nei paesi anglosassoni. Noi abbiamo questa dannata eredità della cultura hegeliana idealistica che è sempre stata predominante, il che spiega in Italia perché poi la destra estrema veda in Tolkien, in tutto quel filone di fantasy, la critica radicale, per così dire, no, della civiltà occidentale. La destra non è una destra uguale in tutto il mondo, la nostra ha una storia particolare, per così dire, per cui è antiscientifica molto più di quanto non lo fosse la sinistra tradizionalmente in Italia, perché quella era positivista e iperscientifica. Adesso tutto si è un po' mischiato, per così dire, no? Sì, verissimo. Allora, in questo però, nello scrivere un libro, uno è dell'idea che sia una minaccia vera, perché altrimenti non si mette a fare un libro di 260 pagine così complicato. Lo è davvero, secondo lei? Mi auguro di no. In realtà credo che la decrescita di per sé, se la consideriamo isolatamente da tutto il resto, probabilmente non sia pericolosa. Ripeto, quello che è preoccupante però è che questo tipo di atteggiamenti, questo tipo di valori, mettiamola così, questo tipo di sensibilità, questo modo di vedere il mondo è molto diffuso, è diffuso anche al di fuori della decrescita, è condiviso anche da molti che criticano la decrescita, che non sono d'accordo con la decrescita, e ed è questo che è realmente preoccupante, perché se si uniscono le considerazioni, gli atteggiamenti irrazionalistici, antiprogressisti, antiscientifici, che sono caratteristiche della decrescita, con una eventuale maggioranza politica, gli esiti potrebbero essere davvero Beh, naturalmente Nikki Vendola e Notav e così via non sarebbero d'accordo con lei, io non voglio confondere chi ha l'obiezione all'infrastruttura con pensarla così. Si può avere delle obiezioni in termini di costi-benefici che non sono stati provati, non sono sostenibili. Vogliamo un ultimo minuto dedicarlo a un tema che lei tocca in un altro capitolo, che per me è del tutto collegabile, coerente e anzi una forza motrice anche dell'economia di mercato: il dono e l'economia del dono, che invece nella testa di chi muove le obiezioni all'economia di mercato in nome della decrescita diventa una cosa che è irriducibilmente ostile e diversa rispetto all'economia di mercato. Come la pensa su questo, sull'economia del dono, lei? Ho provato a spiegarlo nel libro e molto in sintesi io credo che l'interpretazione che i decrescenti e tanti altri in realtà danno di certe teorie sociologiche, qui parliamo in particolare di Marcel Mauss e di Polanyi, siano sbagliate. Cioè l'interpretazione corretta che dovrebbe essere data dell'economia del dono è che si trattava di cioè le società che erano fondate prevalentemente sul dono lo erano perché il dono serviva a riprodurre in profondità la società, cioè serviva a far circolare dei beni che oggi circolano fondamentalmente mediante lo scambio. Il tipo di critica che si muove in genere a questo tipo di conclusione è che si dice il dono crea dei rapporti sociali mentre il mercato non li crea. Li distrugge, anzi. Esattamente, il mercato li distrugge. Questa è una teoria completamente sbagliata perché i rapporti sociali ovviamente non sono... Il mercato non esiste senza scelte e interazioni. Il mercato è una catena di scelte umane, nient'altro che questo. Io credo che proprio per questo, infatti, l'economia del dono sia pienamente compatibile con un'economia di mercato. Comunque io spero solo, per chi ci ha ascoltato oggi, di avervi indotto a una curiosità, perché sono veramente tanti gli aspetti molteplici che si trovano in questo libro. Io personalmente ringrazio per il piacere che mi ha dato alla lettura di questo libro, che si intitola Contro la decrescita, perché rallentare non è la soluzione, Longanesi, e grazie a Luca Simonetti, l'autore, che è stato con noi. Continuate con Radio 24.